2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 6 novembre 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. E come sempre vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast e quindi avrete la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione tra poco più di un'ora. Andate sul nostro sito internet e trovate tutte le informazioni su www.radio24.it. Tra l'altro il nostro servizio podcast ha alcune novità, quindi da un paio di settimane c'è anche la possibilità di vedere un rapido riepilogo direttamente tra le indicazioni del file. Chi conosce il sistema podcast sa di cosa sto parlando, e per gli altri, beh, il consiglio è sempre quello di utilizzare questo sistema, che è un modo alternativo per ascoltare la radio, anche per costruirsi il proprio palinsesto. Praticamente tutti i programmi di Radio 24, quasi tutti i programmi, sono disponibili in podcast e quindi potete costruirvi anche la vostra piccola radio o un momento della giornata in cui riascoltare i nostri programmi. Questa settimana la notizia più importante in assoluto è una notizia attesa da, potremmo dire, anni, perché da 5 anni è in vigore e lo sarà ancora fino alla fine dell'anno il decreto Pisano, che pone una serie di vincoli alla diffusione dei servizi Wi-Fi pubblici, quindi collegamenti Wi-Fi, antenne Wi-Fi che possono essere in un bar, in un ristorante, in un'azienda, insomma in ambito pubblico. Bene, ieri l'annuncio del ministro Maroni al termine del Consiglio dei Ministri. L'ultimo punto è l'accesso alla rete Wi-Fi, il cosiddetto decreto Pisano, che ha previsto, che ha introdotto nel 2005 forti restrizioni alla possibilità di connettersi liberamente alle reti Wi-Fi, i cosiddetti access point, che sono quindi molto pochi in Italia rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo fatto una serie di valutazioni per contemperare l'esigenza di libera diffusione del collegamento Wi-Fi con quelle legate alla sicurezza e alle misure antiterrorismo. Sono stato in Israele in questi giorni e mi sono confrontato su questo tema con il responsabile dell'antiterrorismo israeliano, che ha una qualche competenza in materia di antiterrorismo, e sono arrivato alla valutazione finale che si possa procedere all'abolizione, diciamo, delle restrizioni del decreto Pisano. Come sapete, scade il 31 di dicembre, rimarrà in vigore fino al 31 di dicembre. Dal 1 gennaio introduciamo la liberalizzazione del collegamento Wi-Fi senza bisogno, come succede oggi, di preventivamente registrarsi con la fotocopia del documento d'identità, eccetera, eccetera. Naturalmente, da qui a dicembre valuteremo quali siano gli adeguati standard di sicurezza da mettere eventualmente in capo a chi fornisce il servizio di connettività, ma il principio è che dal 1 di gennaio i cittadini saranno liberi, gli utenti saranno liberi di collegarsi ai sistemi Wi-Fi senza quelle restrizioni introdotte 5 anni fa e che oggi sono ampiamente superate dall'evoluzione tecnologica. E questo era l'ultimo punto che Maroni ha illustrato ieri durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, l'ultimo punto del così chiamato, definito pacchetto sicurezza. Ma che cosa possiamo aspettarci? Saluto Stefano Quintarelli, che è uno dei nostri esperti di telecomunicazioni, anche membro del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Bentornato a 2024, Stefano. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Subito così una prima valutazione su quello che possiamo aspettarci dal primo di gennaio, comunque se non dai primissimi giorni dell'anno, dalle prime settimane, Stefano. Beh, io credo che a partire dal primo di gennaio ci possiamo aspettare che la norma Pisano non venga reinserita come è avvenuto in passato nel famoso mille proroghe e che quindi semplicemente decada, per cui quegli obblighi che richiedevano la dichiarazione, l'autorizzazione del questore per l'esercizio di reti di accesso Wi-Fi pubbliche e che prevedevano la registrazione dei documenti, la fotocopia dei documenti di identità degli utenti del Wi-Fi, queste norme vengono a decadere, per cui niente, non ci sono più. Questo potrebbe voler dire che io, che ho un bar ad esempio, voglio fornire questo servizio gratuitamente, liberamente al mio cliente, mi rivolgerò ad un professionista e io faccio, diciamo, pago l'affitto di questa infrastruttura, non faccio molto altro. Ma allora vediamo. O lo posso fare direttamente, cioè posso abbonarmi ad un ADSL e fornire questo servizio con un hotspot, punto e basta. Abbonarsi a una DSL è normale, fornirlo è già generalmente una violazione contrattuale, perché il contratto che uno fa con Telecom per Alice piuttosto che con Fast piuttosto che altri esclude la possibilità di rivendita del servizio. Quindi se io faccio quel contratto con Telecom non devo rivendere il servizio. Cioè anche se lo do via gratis, insomma. Anche se lo do via gratis io non posso ridistribuire il servizio. Questo è il contratto tipico. Poi c'era un problema che oggettivamente la fotocopia della carta d'identità era una cosa veramente macchinosa e quindi non c'era nessun operatore che era andato a fare dei contratti specifici per i bar e per gli esercizi pubblici che consentissero la ridistribuzione del servizio. Questa cosa che ho detto è parzialmente vera, nel senso che qualche piccolo operatore che faceva dei contratti specifici per gli esercizi pubblici finalizzati alla redistribuzione c'è stato e si basava su un meccanismo di autenticazione via SMS che tanti ascoltatori naturalmente conoscono. Ecco, questa autenticazione via SMS era un po' una forzatura rispetto alla norma Pisanu, perché la norma Pisanu prevedeva che fossero tre ministeri, comunicazioni, innovazione e interno, a stabilire le modalità di identificazione degli utenti e i tre ministeri hanno detto copia dei documenti. Successivamente c'è stata una lettera del Ministero degli Interni che diceva ci accontentiamo dell'SMS, ma come dire, era un po' una forzatura da parte del Ministero degli Interni questa cosa, no? Perché la norma, la legge diceva che il metodo era la copia della carta d'identità. Gli operatori, sapendo di questo, non è che potevano andare a fare un'offerta ai bar, agli esercizi pubblici, che non era conforme alla legge, quindi questa cosa in qualche modo ha limitato la diffusione del Wi-Fi. Ecco, io mi aspetto che a partire dall'anno prossimo tutti gli operatori avranno delle offerte per gli esercizi pubblici che gli consenta di ridistribuire il servizio e nel contempo di ottemperare a quelle misure ulteriori, meglio specificate per gli operatori che il ministro Maroni appunto ha detto che ci saranno. In breve altri due o tre punti. Il primo è, ho sentito in queste poche ore, da ieri pomeriggio ad oggi, moltissime persone che mi chiedono delucidazioni su questa liberalizzazione, ma sotto sotto, parlando con queste persone, capisco che molti si aspettano quasi quasi una rivoluzione della serie. Dal prossimo anno ci saranno reti Wi-Fi ovunque, ci potremo collegare gratuitamente da internet in qualsiasi posto. Non sarà così. Beh, allora, diciamo che la norma Pisanu non c'è in Inghilterra, ma se uno cammina per Londra vede che con un palmare aperto, vede che reti Wi-Fi ce ne sono tantissime, aperte sono pochissime. Esatto. Invece è frequente entrare in un bar e vedere come servizio del bar il fatto che ci sia una rete Wi-Fi di cui il cassiere ti dà la password. Ecco, quindi mi aspetto una cosa di questo genere. Però attenzione, è anche diversa la cultura, perché il tasso di penetrazione di internet in Italia è molto più basso rispetto a quello dell'estero, quindi bisogna vedere quale barista veramente sarà interessato a fare in modo che ci sia la gente che va lì, piuttosto al fatto che prende il caffè e se ne vada via di corsa. Ecco, quindi ci sono anche degli aspetti culturali, sì, che lo devono sottovalutare. Poi voglio dire anche un'altra cosa, no? Perché io sono uno dei fondatori dell'Associazione Italiana della Sicurezza Informatica ed è una cosa alla quale tengo parecchio. Io non mi fido di un punto di accesso che non so di chi è, di una, cioè, quando trovo, non so, una rete, dici, io come utente, Wi-Fi, free Wi-Fi, hotspot e così via, cioè se io oggi in Piazza del Duomo mettessi un access point aperto, io sono convinto che nell'arco della giornata potrei raccogliere almeno un centinaio di credenziali di Google, mail, di ignari turisti. O di banche. Cioè, no, a quel punto in Google Mail, vabbè, c'è tutta la posta, tutta la rubrica, i documenti, la rete degli amici, cioè tutto. Sì. Quindi cioè, bisogna anche. Non è che la cioccolata gratuita, che qualcuno che ti regala la cioccolata va sempre bene, no? Ti puoi fare anche un'indigestione, cioè, bisogna stare un po' attenti, bisogna sapere quello che si fa. Attenzione, si chiamano tecnicamente on-iPods, questi, che sono appunto delle trappole fatte per andare ad acquisire dei dati, quindi non è che uno dice mi collego dovunque, no, questo è un comportamento un po' rischioso. Si può fare, però uno deve sapere che quantomeno deve usare delle sessioni cifrate, quindi HTTPS, non andare su servizi che non prevedono l'HTTPS, e sapere che, cioè, io l'home banking da un access point che non so di chi è, non lo fai, non lo faccio, qualche dubbio. Senti, ho un'ultima domanda, ma adesso c'è una breve pausa per noi. Siete su Radio 24, questo è 2024, a tra poco. Stiamo parlando della liberalizzazione del Wi-Fi 2024. In questa puntata con noi Stefano Quintarelli, che oltre ad essere uno dei più noti esperti di telecomunicazioni è anche membro del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, e su questo punto abbiamo detto qualche cosa poco fa. Non fidiamoci troppo degli hotspot, oltre che gratuiti, anche accessibili liberamente. Magari dietro c'è qualcuno che lì è pronto a spiare e controllare il traffico che noi facciamo. Diceva poco fa Quintarelli che c'è anche una diversa cultura, cioè in effetti un barista, un albergo potrebbe dire: ma perché devo spendere soldi per mettere una rete wifi quando i miei clienti interessati ad internet magari sono pochi? Beh, sicuramente, dico io, un barista del genere, un albergatore, adesso utilizzo questi come esempi, ma potremmo farne moltissimi altri ad esempi, nel caso mettano una rete wifi gratuitamente accessibile, sono sicuramente persone lungimiranti che guardano anche ad un pubblico magari disposto a spendere in altro qualche cosa in più. Ma dicevamo che c'è una cultura diversa, e anche che purtroppo sono pochi gli italiani che hanno scoperto che cosa si può fare in internet, lo sconfinato mondo di possibilità di internet. Secondo gli ultimi dati sono 24 milioni gli italiani che navigano con una certa regolarità, con una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. L'aggiornamento è stato diffuso questa settimana dallo IAB, che è l'associazione che raggruppa i professionisti della pubblicità online. A proposito di pubblicità, quest'anno il valore, alla fine di quest'anno, raggiungerà il miliardo di valore, un mercato destinato però a raddoppiare nel giro di 3 anni. Questo è sicuramente un dato che conforta. Un'ultima domanda per Stefano Quintarelli: ma per quale motivo io dovrei collegarmi ad una rete wifi con il mio smartphone, con il mio computer portatile? Perché stiamo parlando di una modalità di collegamento nomadico, cioè io mi sposto, mi fermo in un luogo pubblico e apro il mio computer oppure collego il mio smartphone alla rete wifi. Perché dovrei utilizzare questo tipo di collegamento e non la rete di telefonia mobile con la quale normalmente magari io mi connetto con lo smartphone, o anche col computer portatile che magari usa una chiavetta USB con una SIM? Per quale motivo? Beh, ci potrebbe essere una differenza prestazionale. Dico ci potrebbe perché talvolta in un albergo le prestazioni sono veramente ignobili, quindi può esserci qualche differenza prestazionale. È vero che ci sono, cioè, se tu sei un italiano che ha una SIM italiana sul suo dispositivo italiano non c'è un grave problema, però se tu sei un italiano che ti trovi in Francia, farti una SIM francese è un problema. Per uno straniero che arriva in Italia, no, dicevo prima, il professore che va in visita all'università, l'accademico, lo studente che arriva, il turista, pensiamo ai turisti, cioè non è che loro si possono fare un abbonamento per una settimana o per 2 giorni che stanno, non hanno neanche il tempo per andare a farlo, no? Poi ti viene richiesto il documento. Io ho provato a fare una SIM in Francia e mi chiedevano il conto corrente, ho provato ad aprire un conto corrente per 3 giorni in Francia, era una complicazione veramente enorme. Quindi ci sono delle particolari categorie di uso, diciamo, l'utente normale italiano che già è abituato a viaggiare, che quindi è già dotato di uno strumento portatile con una SIM, ha un beneficio in termini prestazionali magari. Magari può anche decidere di fare un abbonamento un po' più limitato in termini di volumi rispetto a quello che altrimenti sarebbe costretto a fare, ma il grosso vantaggio è per l'utente occasionale che arriva magari sporadicamente in Italia. Bene, grazie Stefano Quintarelli, buon fine settimana e buon lavoro, a presto. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Per semplificare ulteriormente, per dire quanto oramai sono necessari i collegamenti ad internet di questo tipo anche ai gestori di locali pubblici un po' più scettici, facciamo un paragone molto semplice con il bagno pubblico. Oramai oggi diamo per scontato, almeno nella stragrande maggioranza dei locali pubblici, che siano, abbiamo utilizzato gli esempi del bar o dell'albergo, ma come dicevo, insomma, potremmo andare oltre anche negozi, centri commerciali, eccetera, eccetera. Beh, oramai diamo per scontato che nella maggior parte di questi casi ci sia la disponibilità di un bagno accogliente e pulito. Beh, oggi internet per una buona parte della popolazione è diventata una necessità, e quindi andare incontro a queste esigenze per un gestore di un locale pubblico è sicuramente un'attenzione al cliente, al consumatore, che molto spesso potrebbe essere ripagata in altro modo. Sicuramente un altro punto interessante è quello che citava Stefano Quintarelli, cioè la possibilità, quando ci colleghiamo ad un hotspot pubblico, di non consumare il monte traffico dati della nostra SIM, e quindi la possibilità anche di non sforare questo monte dati. Abbiamo citato poco fa un numero, cioè i 24 milioni di utenti che si collegano alla rete internet. Sicuramente alcuni lo fanno saltuariamente, alcuni invece tutti i giorni, tutti i minuti, sempre, forse solo quando dormono non sono collegati ad internet. Un altro numero ci indica come sta cambiando il mondo. Negli Stati Uniti le vendite di ebook, i libri che si possono leggere sugli appositi lettori, gli ebook reader, sono cresciute quest'anno del 193% rispetto all'anno scorso. Stiamo certo parlando di un mercato che valeva tanto poco che anche un piccolo incremento in valore assoluto si traduce in un numero percentuale molto alto, ma se guardiamo i ricavi del comparto, vediamo che nel 2010 toccheranno una cifra sicuramente molto interessante: 263 milioni di dollari. E per parlare di ebook, oggi è con noi Antonio Tombolini, che è presidente, che è fondatore di Simplicissimus Book Farm e sicuramente uno dei massimi esperti di ebook in Italia. Bentornato a 2024. Grazie e bentrovati. I libri elettronici chiamati ebook possono essere o l'hardware, quindi l'aggeggio elettronico che teniamo in mano per leggere poi i contenuti, ma anche appunto il testo che noi leggiamo. Vorrei però partire dall'ABC, anche se già abbiamo toccato questo aspetto, però forse non a tutti gli ascoltatori è chiaro che cosa significa ebook quando parliamo dello strumento hardware, quindi certo, di questa tavoletta che forse alcuni confondono con i tablet, ma poi parliamo anche dei tablet. Un ebook che cos'è? Un ebook reader, a questo punto sì, è opportuno precisare, perché man mano la terminologia si va un po' definendo. Gli ebook reader sono delle, appunto, tavolette dedicate a fare esclusivamente una cosa, e cioè a consentire una lettura confortevole di testi tendenzialmente lunghi, e quindi libri, che adottano una tecnologia che è arrivata sul mercato con i suoi primi esemplari nel 2006. Una tecnologia che si chiama e-ink, inchiostro elettronico, che adotta un principio di visualizzazione in tutto e per tutto simile alla carta stampata e in tutto e per tutto alternativo e opposto, se vogliamo, alla visualizzazione digitale degli schermi LCD, LED, eccetera, a cui siamo abituati dal computer, dalla televisione, dai telefonini e oggi dai tablet. In termini molto semplici, quello che succede su un ebook reader è che quello che io vedo è uno schermo spento. Si accende per un attimo quando cambio pagina per stampare la nuova pagina e poi si spegne di nuovo. Quello che vedo su un ebook reader lo vedo grazie alla luce esterna che dà luminosità allo schermo spento. All'opposto, quello che vedo su uno schermo LCD di un tablet, computer, di uno smartphone, lo vedo grazie alla luce che invece viene emessa direttamente verso l'occhio dai pixel, dalle tante lampadine luminose che si accendono e che devono rimanere accese. La cosa divertente è proprio questa, che con l'ebook reader, quindi con i lettori di questo tipo, al buio non vedo nulla, quindi ho bisogno della luce, così come accade col libro vero e proprio. Esattamente così, il parallelo è proprio questo. La luminosità esterna è amica degli ebook reader come amica della carta stampata, mentre è nemica degli schermi LCD, che infatti hanno difficoltà ad essere visualizzati soprattutto in esterno o in pieno sole. All'inverso, al buio vedo meglio uno schermo di un computer o di un telefonino, e invece non vedo affatto e ho bisogno della buona vecchia lampadina da comodino se voglio leggere la sera con un ebook reader a letto. Quindi ci sono dei pigmenti che stampano proprio la pagina, ma inchiostro vero e proprio. Siamo ancora fermi al bianco e nero? Siamo ancora fermi al bianco e nero. Io non ricordo, ma mi pare forse di ricordare che ne parlammo appunto qualche tempo fa proprio qui insieme a te. La tecnologia a colori dell'inchiostro elettronico in realtà è già disponibile, già esiste, ci sono diverse soluzioni tecnologiche per portare il colore anche sugli ebook reader. A questo punto è un problema semplicemente di mercato. Queste tecnologie oggi si trovano improvvisamente a dover competere in termini di costi con tecnologie consolidate come l'LCD in tutte le sue evoluzioni successive e con un signore che si chiama iPad e con dei signori che si chiamano tablet, e indubbiamente questo pone dei problemi di costo per una tecnologia che invece è nuova e che quindi deve trovare ancora il suo spazio in termini di costo sostenibile. Prima di parlare dei tablet e dello scenario collegato col mondo degli ebook, volevo chiederti se questa caratteristica che tu hai descritto, cioè di questi pigmenti che stampano la pagina, è un vantaggio in che termini? Perché è meglio leggere un libro su questi ebook piuttosto che sullo schermo di un computer? Certo. È un vantaggio in dipendenza di che cosa devo leggere e di delle situazioni in cui mi trovo a leggere. Quindi è un vantaggio soprattutto quando ho a che fare con testi piuttosto lunghi, tipicamente un libro. Perché è un vantaggio? Perché la visualizzazione attraverso un computer o un tablet è basata proprio sulla emissione di radiazioni luminose dirette verso l'occhio, mentre la lettura di un libro di carta stampata o di un ebook reader a inchiostro elettronico è basata invece sulla illuminazione dello schermo da parte della luce esterna. Quindi affatica meno la vista. Affatica decisamente meno la vista. In rapporto alle situazioni, se io voglio leggere un libro in spiaggia non potrò mai farlo neanche col migliore dei tablet, mentre potrò farlo e potrò farlo in maniera assolutamente piacevole con un ebook reader. Bene, adesso per noi c'è una pausa, ci fermiamo per qualche minuto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, parleremo tra poco del perché il tablet, se esiste un perché, non basta, ma per leggere un libro è meglio un ebook reader. Ma anche qua le opinioni sono diverse, tra poco sentiremo quella di Antonio Tombolini, tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, seguiteci ogni settimana nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure ci trovate anche sul nostro sito internet www.radio24.it e come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Basta prendere una stringa che trovate un indirizzo, un link che trovate sul nostro sito internet alla voce podcast, dopodiché lo inserite in un programma che gestisce i podcast come ad esempio iTunes oppure anche come l'ottimo iTunes, che è una sorta di iTunes ma multipiattaforma, funziona anche per Linux, ogni tanto qualcuno ci scrive per fare promozione a Linux. Cercheremo di parlarne in futuro, anche se è sempre difficile trovare una chiave molto popolare per parlare di questo prodotto che rimane relegato in una fascia di appassionati oppure nelle aziende dove sta funzionando molto molto bene. Io sono Enrico Pagliarini, non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, 2024@radio24.it. Dicevo del podcast, troverete il file MP3 della nostra trasmissione, scaricabile appunto con quell'indirizzo che vi dicevo, tra poco più di mezz'ora al termine della nostra puntata sul nostro sito internet. Per questo, come sempre, ringraziamo i nostri tecnici, oggi Carmelo Lauricella. Stiamo parlando di ebook e di ebook reader, quindi degli strumenti che ci permettono di leggere i libri elettronici. È con noi Antonio Tombolini di Simplicissimus Book Farm, che è anche una piattaforma per vendere libri digitali. Metteremo poi il link sul nostro sito internet. Dunque, Antonio, volevo capire, oggi si parla molto di

gli editori capiranno che ben presto tutti questi vincoli di DRM, questi blocchi, sono inutili e forse non sono un aiuto, esatto, al consumatore. Esatto, anche qui con un'avvertenza, che lavorando un po' in questo ambiente, parlando con gli editori eccetera, c'è anche da dire che probabilmente la consapevolezza su questo degli editori è già piuttosto avanzata, molto meno avanzata è ancora, ahimè, tra autori e soprattutto tra i loro agenti. Spesso sono gli agenti letterari e gli autori a pretendere dagli editori l'apposizione di questi meccanismi, di questi DRM, dei quali a volte gli editori farebbero anche volentieri a meno. Questo vale soprattutto per gli autori di maggior peso, quelli più importanti, sì. E quindi naturalmente questo condiziona anche le scelte degli editori. Questo vuol dire che difficilmente io posso comprare un libro elettronico e dire: guarda, te lo passo, cioè nel senso te lo trasferisco sul tuo lettore. Questo non si può fare. Spesso. No, allora, questo non si può fare in linea di diritto, non si può fare comunque, nel senso che io acquisto con un libro elettronico, non trattandosi di oggetti fisici di cui acquisisco la proprietà e che, di cui posso trasferire la proprietà con l'oggetto stesso, acquisisco comunque una licenza d'uso di quel contenuto, e la licenza d'uso può avere delle limitazioni legali. Il problema dei DRM è che per evitare, per mettere un meccanismo che impedisca di fatto questa cosa, poi in realtà inseriscono tante difficoltà agli utenti in perfetta buona fede che rischiano di scoraggiare l'acquisto. Io leggo molto poco e di libri non è che mi appassioni moltissimo, però questo argomento mi appassiona molto, mi piace anche capire questo mercato come si sta trasformando. Ma ad esempio la biblioteca, è possibile immaginarla in questo mondo? Di persone che sono dotate del lettore ma non hanno appunto i libri. Questa è una cosa che stiamo anche noi in Simplicissimus proprio mettendo a punto in queste ultime settimane, nella convinzione che anche il lavoro di una biblioteca, e diciamo anche di una biblioteca civica, no? Sì, sì, di pubblica. Mia pubblica mamma biblioteca. Legge un sacco di libri in biblioteca pubblica. Allora, la domanda chiave a cui rispondere, secondo me, è: che cosa significa prestare gratuitamente un ebook? Perché questo è lo scopo istituzionale di una pubblica biblioteca. Secondo noi si può fare. In questo caso, ad esempio, proprio per dimostrare che l'approccio ideologico anche al tema DRM e non DRM non è quello corretto, esiste una modalità dei DRM che consente di dare libertà di accesso al file, che però ha una durata temporale. La nostra soluzione, quella che stiamo implementando e che stiamo proponendo alle biblioteche, è basata su questo, cioè a riproporre il modello del prestito del libro cartaceo, che significa che la biblioteca mi presta un libro gratuitamente col patto che poi io devo renderlo entro un certo tempo, traduce tutto questo in chiave elettronica, consentendomi di accedere gratuitamente a quel libro elettronico che dopo X giorni scadrà e quindi sarà come riconsegnato. Il vantaggio per una biblioteca ovviamente è notevole anche dal punto di vista della gestione dei costi, intanto perché un libro elettronico non ha bisogno degli spazi, degli scaffali, eccetera, e anche perché proprio il meccanismo di resa del libro, che nel libro di carta deve essere gestito perché poi uno si dimentica e bisogna corrergli dietro, eccetera eccetera, naturalmente tutto questo cambia. Potremmo continuare per molto tempo naturalmente a parlare di questo argomento. Vorrei però, giusto per concludere la panoramica che abbiamo dato agli ascoltatori su questo nuovo mercato, perché siamo veramente agli inizi, come funziona la distribuzione? Cioè, io scrivo un libro, lo metto in pasto all'editore, che speriamo me lo pubblica, poi cosa succede? Ma già sul prima c'è una variante che sta crescendo ed è un tema che si sta ponendo con molta forza negli Stati Uniti e anche ormai anche nei mercati europei e anche in Italia. Io sono un autore, non è detto che decida di avere un editore. Posso decidere di essere editore di me stesso, di autopubblicarmi. Noi abbiamo una piattaforma di autopubblicazione digitale che si chiama Narcissus e che consente agli autori, se lo vogliono, di autopubblicarsi. Facciamo noi il servizio di conversione a formato EPUB e inseriamo il loro EPUB nella piattaforma di distribuzione che si chiama Stealth, grazie alla quale, questo a differenza delle piattaforme di autopubblicazione esistenti, il libro dell'autore può andare a finire in vendita non in una libreria online destinata solo a chi si autopubblica, ma nelle librerie online su cui poi si vende anche Dan Brown o Ken Follett o i bestseller, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa prima variante. Dopodiché, naturalmente, diciamo che nel mondo fisico è un po' più difficile. Sì, ci sono i servizi che ti stampano il libro, però è un po' più difficile, se non altro per livello di costi e di accesso, ma io credo anche perché sarebbe impensabile pensare di distribuire il proprio libro autopubblicato sulle librerie tra virgolette vere, nel senso che non avrebbe comunque accesso, mentre in chiave digitale questo è possibile. È una cosa che Amazon fa già da tempo sulla sua piattaforma Kindle, ci sono già dei casi molto rilevanti, insomma, anche delle numeriche di riferimento che dimostrano che questo modello in molti casi può effettivamente portare a degli ottimi risultati, e quindi questa è un'area, se vogliamo, nuova che il mercato digitale sta creando. Dopodiché, naturalmente, esiste la filiera invece principale, che è quella dell'autore che viene pubblicato da un editore. L'editore affida i suoi titoli a una piattaforma di distribuzione, l'equivalente del magazzino del distributore nel mondo dei libri di carta, la quale piattaforma, che nel nostro caso si chiama Stealth, è poi, attraverso software opportuni, integrata automaticamente con tutte le librerie online, e quindi il libro dell'editore si ritrova, una volta caricato nella piattaforma, automaticamente in vendita, esposto su tutte le librerie. Ci sono parecchi rivenditori, cioè di negozi che vendono, cioè le librerie online. Ce ne sono, ad esempio, noi citiamo spesso, anche perché abbiamo una collaborazione come Radio 24, IBS, Internet Bookshop, però Internet Bookshop è nata prima di tutto come rivenditore di libri tradizionali. Certo. Che altro tipo di piattaforme, uso sempre questa parola che va molto di moda. IBS intanto va detto che è stata la prima libreria online a mettere in vendita in Italia ebook, grazie proprio all'integrazione fatta con gli editori da noi distribuiti durante l'ultima edizione del Salone del Libro di Torino a maggio. Ha aperto la prima sezione ebook esistente in Italia. Oggi sono già operative con sezioni ebook anche bol.it, ma anche tanti altri player, a volte anche nuovi, come Telecom con il suo Biblet o MediaWorld, ad esempio, che è ovviamente un grosso player, il player di riferimento nella distribuzione anche degli ebook reader intesi come hardware, ha deciso di vendere anche ebook intesi come libri nel suo sito, ancora una volta attraverso l'integrazione con la piattaforma. E così come si stanno partendo o sono già partiti dalla Feltrinelli.it a Libreria Universitaria, a Webster, a tanti altri soggetti che stanno a volte anche entrando ex novo soltanto in chiave digitale su questo mercato. Ti vorrei fare un'ultima domanda su grandi player internazionali che possono arrivare sul mercato italiano. Beh, io direi uno per tutti, mi sento di dirlo in maniera piuttosto decisa. Sono pronto a scommettere, magari poi ci rivediamo qua per verificare, credo che entro il primo semestre del prossimo anno avremo anche Amazon.it. Credo che Amazon ormai sia in procinto di aprire esplicitamente un business, perché ricordiamolo che un business ce l'ha già. Dall'Italia molti italiani comprano libri, in Gran Bretagna o in Francia, esattamente, sì. Anche se ad oggi l'offerta di libri italiani è molto povera ancora in Amazon. Sì. Io credo che il primo semestre 2011 segnerà, tra le varie cose, anche l'ingresso deciso di Amazon sul mercato italiano con libri italiani. Immagino in prima battuta libri di carta, ma credo che sarà il presupposto anche per poi partire anche con un'offerta in formato digitale. Naturalmente questo significa chiedersi anche che cosa succederà sul mercato, perché è ovvio che l'ingresso di un player di questo tipo comporterà comunque delle conseguenze, e sarebbe opportuno ragionarci ancora una volta da parte di tutti i player coinvolti. Bene, ringrazio Antonio Tombolini per essere stato con noi. Buon lavoro, perché il lavoro non manca in questo settore, mi sembra di capire. Per fortuna no, direi proprio di no. A presto. Grazie. E abbiamo concluso con una notizia sicuramente molto interessante, perché se arriva un big player come Amazon sul mercato italiano, beh, qualche cosa succederà e lo scossone potrebbe essere piuttosto violento. Abbiamo alcune notizie prima di concludere. Quella che state ascoltando è la versione podcast. Vi abbiamo offerto una versione un po' più lunga di questa intervista interessante, a mio parere, sul mercato degli ebook e degli ebook reader. Dicevo le notizie prima di concludere. La scorsa settimana abbiamo parlato della diffusione della banda larga, raccontando cosa è stato fatto a Cremona sfruttando la posa della rete del teleriscaldamento fatta a metà degli anni Ottanta. In quel caso è stata realizzata anche una rete abbastanza capillare in fibra ottica. È stata una scelta lungimirante, un'esperienza sicuramente da replicare. Una cosa analoga è stata fatta a Milano, ma la rete è stata poi privatizzata, quindi non è più di proprietà pubblica, e in un contesto in cui si discute di rete di prossima generazione e di investimenti pubblici, sicuramente Cremona ha un vantaggio, perché quella rete potrà già far parte di un pezzetto della rete che la Lombardia vorrà costruire, e in questo caso la regione è fortemente coinvolta. Dicevo, intervista interessante da fare ascoltare, da suggerire a tutti gli amministratori pubblici, perché ogni momento ed ogni opera pubblica, anche la più piccola, andrebbe sfruttata per posare fibra o almeno un tubo dove poi far passare la fibra. È un'opera che costa veramente molto poco, ma una opera in preparazione di un'infrastruttura necessaria e fondamentale per il paese. Anche solo un piccolo marciapiede deve essere pensato per offrire spazio alla fibra ottica. Sempre la scorsa settimana abbiamo parlato di cybercrime e dei danni che un attacco informatico potrebbe provocare alle infrastrutture di un paese. Per capire come ogni nazione europea è in grado di reagire, l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti, l'ENISA, ha fatto una simulazione tra 22 paesi che comprendono anche Islanda, Norvegia e Svizzera. Un rapporto completo sui risultati verrà pubblicato il 10 novembre e speriamo che il risultato non sia catastrofico. Sempre il 10 novembre uscirà nei negozi Kinect, il modulo aggiuntivo per la Xbox in grado di pilotare i giochi con il solo movimento del corpo, quindi non si ha nessun controller senza fili, nessun joystick, basta muovere le mani e le braccia, insomma il corpo, per muovere il gioco, per comandare il gioco. Kinect, questo strumento, ha una videocamera, un sensore di profondità, raggi infrarossi e anche un microfono, quindi i giochi possono essere pilotati anche con la voce. Costerà 149 euro, ma ne parleremo, perché questa è sicuramente, oltre che una tecnologia se non avanzatissima, però un buon modo, un modo intelligente per sfruttare le tecnologie esistenti e soprattutto un nuovo modo per giocare. Ma poi chissà, dal gioco si passerà ad altro, che ne so, si potrebbe pilotare anche un'automobile. Bene, noi concludiamo questa puntata, questa è la versione podcast. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Carmelo Lauricella, il tecnico che ha curato la gestione podcast in questa settimana, anche Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, quindi 2024@radio24.it. Torniamo la prossima settimana, per adesso un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.